Letture di Radio 24. In America un libro racconta la storia di ELA, il primo prototipo di coltivazione in vitro di cellule umane. E nasce una fondazione per aiutare gli eredi dell'inconsapevole donatrice. Il 4 ottobre di 60 anni fa, in una corsia del Johns Hopkins Hospital di Baltimora, moriva, per insufficienza renale acuta dovuta a metastasi multiple disseminate, Henrietta Lacks. Nessuno, a parte i familiari, avrebbe mai ricordato l'esistenza di quella 31enne di colore, già madre di 5 figli, povera e semi-analfabeta. Se non fosse che qualche mese prima, mentre si sottoponeva a un trattamento radioterapico locale, alcune cellule sane e alcune tumorali della sua cervice uterina erano state prelevate con una biopsia e date a George Otto Jay. Questi era uno zoologo e genetista che voleva essere il primo a coltivare in vitro cellule umane e ci riuscì con quelle prelevate da Henrietta. Probabilmente anche in ragione delle caratteristiche acquisite da quelle cellule per una singolare ricombinazione del genoma del virus del papilloma umano che causa il cancro della cervice dell'utero con il genoma della Lacks. Se Jay le avesse brevettate, come si farebbe regolarmente oggi, sarebbe diventato un magnate, ma apparteneva a una generazione di scienziati per cui la gratificazione intellettuale della scoperta o dell'invenzione bastava come premio e riteneva di far parte di una repubblica della conoscenza. Fece anzi circolare il più possibile quella prima linea cellulare umana, così come altre che mise a punto creando al Johns Hopkins un laboratorio di colture cellulari. Aveva così inizio l'evoluzione delle linee di cellule HeLa, da Henrietta Lacks. Grazie alla propagazione delle cellule tumorali immortali che l'avevano uccisa, la sfortunata donna divenne così una figura familiare tra gli scienziati, più che presso i suoi stessi figli. La vicenda di Henrietta Lacks e delle HeLa è stata raccontata in numerosi libri divulgativi, nonché in saggi di sociologia della scienza. Nessuno era tuttavia riuscito a trarne una storia capace di appassionare l'opinione pubblica e allo stesso tempo di far riflettere in modo non scontato sui rapporti tra scienza e società. Un risultato ottenuto dal libro di Rebecca Skloot, pubblicato l'anno scorso, ha meritatamente guadagnato numerosi riconoscimenti, recensioni praticamente solo positive. È stato venduto in centinaia di migliaia di copie e la casa di produzione di Oprah Winfrey lo sta trasformando in un film. Quali sono i motivi del successo? La Skloot è una scrittrice creativa che tratta argomenti biomedici, una figura che esiste solo nel mondo anglosassone. Possiede competenze scientifiche, capacità narrativa e deontologia giornalistica, secondo gli standard anglosassoni, sa vassandire. Il libro ha quattro protagonisti: Henrietta, sua figlia Deborah, nata nel 1949 e morta 2 anni fa, le cellule HeLa, che danno forma al punto di vista cangiante degli scienziati e delle istituzioni scientifiche, e l'autrice. Sì, perché contiene anche la ricostruzione di come si sono svolte le ricerche, durate 10 anni, per scriverlo. Il successo del libro è l'ennesima prova che la scienza interessa, e molto, al largo pubblico, cosa che in Italia si fatica a capire a causa di una generalizzata sedazione intellettuale dovuta ad abuso di scadente cultura umanistico-letteraria. Piace pensare che il libro abbia avuto successo non solo perché affronta una vicenda da cui emerge un passato tragicamente recente di diseguaglianze razziali, ma anche perché non scade nella retorica o nel populismo antiscientifico. Non sfrutta gli aspetti eticamente e socialmente controversi per mettere sotto accusa la scienza e gli scienziati. Non cade, per esempio, nel fraintendimento di applicare gli standard etico-legali odierni, per cui non sarebbe etico prelevare delle cellule a un paziente senza chiedere il suo consenso informato, come fu fatto con Henrietta. Né specula moralisticamente sul fatto che mentre i figli della Lacks sono rimasti poveri e male istruiti, la moltiplicazione di quelle cellule ha contribuito a una cospicua parte degli straordinari avanzamenti scientifici e ricadute tecnico-diagnostiche, tra cui i vaccini, cure per tumori e procedure di clonazione e mappatura di geni, che hanno reso famosi, potenti e ricchi molti scienziati e imprenditori dell'area biomedica nell'ultimo mezzo secolo. Usando le HeLa sono stati scritti oltre 60.000 articoli scientifici, numero che aumenta al ritmo di 300 ogni mese. La Skloot, però, sbaglia quando stima, calcolando una progressione geometrica, che sino a oggi sia stata prodotta una quantità di ELA da riempire 100 edifici equivalente all'Empire State Building, 50 miliardi di tonnellate. È assurdo. Di certo, però, il numero in circolazione è di gran lunga superiore a quello di tutte le cellule del corpo di Henrietta, cioè più di 100.000 miliardi. Il libro racconta fatti, lasciando fuori i giudizi dell'autrice, che non rinuncia a trasmettere toni emotivi dei rapporti tra i protagonisti. Ricostruisce alcuni aspetti un po' farseschi della storia, come quando entrò in campo il solito Jeremy Rifkin, paventando catastrofi planetarie dovute alla notevole capacità replicativa e adattiva delle ELA, di cui alcuni biologi parlano come di una specie a sé stante, battezzata Elaciton Gatleri, e non trascura passaggi importanti come la sentenza della Corte Suprema del 1990 che diede torto a un altro paziente famoso, John Moore, il quale aveva fatto causa all'Università della California in quanto aveva brevettato cellule prelevate da un suo tumore. La Corte Suprema stabilì che il materiale biologico di scarto ottenuto durante una procedura clinica non è di proprietà del paziente e quindi può essere usato per sviluppare tecniche o prodotti commerciali. Anche se non sono stati violati leggi o principi morali, la storia provoca disagio e un'intuizione di ingiustizia. Colpisce l'incapacità dei ricercatori di capire le difficoltà dei figli della Lax di concettualizzare l'esistenza in vita di parti del corpo della madre o le loro reazioni alla scoperta che quelle cellule avevano prodotto soldi e privilegi, mentre loro non potevano permettersi le cure sanitarie di base. Anche su quest'ultima questione, la Skloot dà una lezione di stile. Prima dell'uscita del libro, ha creato la Henrietta Lacks Foundation per aiutare i discendenti di Henrietta a curarsi e a pagarsi gli studi. La fondazione promuove anche iniziative per sensibilizzare, attraverso la storia delle ELA, la comunità sociale di riferimento sul valore della scienza. Al momento le donazioni arrivano soprattutto da scienziati che individualmente sentono di dover ricompensare la società, in questo caso la famiglia Lacks, per il privilegio di aver avuto a disposizione i resti immortali di Henrietta. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Gilberto Corbellini dal settimanale Domenica allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Condannati all'ergastolo quali esecutori della strage di Bologna, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro si sono sempre dichiarati innocenti. Ora, a distanza di 31 anni, si torna a parlare di mandanti palestinesi. Con soli 31 anni di ritardo, si è ora ufficialmente scoperto che due estremisti tedeschi legati al terrorista Carlos erano a Bologna il 2 agosto 1980, quando scoppiò la bomba alla stazione. Il che rilancia la pista palestinese. Per coloro che hanno sempre considerato con scetticismo l'idea che gli esecutori di quella strage fossero i neofascisti Mambro e Fioravanti, come invece sostiene una sentenza di tribunale, la pista palestinese è sempre stata una possibilità da non scartare. E inoltre bastava leggere Francesco Cossiga, che di misteri italiani se ne intendeva, per trovarla verosimile. Perché non venne allora presa seriamente in considerazione? Si possono solo fare ipotesi. Si può ipotizzare, per esempio, che abbiano giocato due fattori, la ragion di Stato, dello Stato democristiano all'epoca, e le convenienze dei partiti di allora. Negli anni 70-80 vigeva quello che Cossiga battezzò il Lodo Moro, una intesa tacita fra l'Italia e i movimenti armati palestinesi che assicurava ai loro aderenti un occhio di riguardo, anche sul nostro territorio, da parte delle autorità italiane. Quali effetti dirompenti avrebbe avuto per la politica italiana in Medio Oriente la scoperta da parte dell'opinione pubblica che la strage di Bologna, per scelta deliberata o per incidente, mentre l'esplosivo transitava per la stazione, andava ricondotta all'azione di un gruppo di terroristi palestinesi? La politica filo-araba e filo-palestinese della DC avrebbe ricevuto un durissimo colpo. C'erano poi le convenzioni ideologiche. Era molto più rassicurante, e creava anche molte meno rogne nei rapporti fra la DC e il PCI, ricondurre alla pista nera, alla pista neofascista, l'attentato. Chiunque sia, è un fatto che il processo proprio questo stabilì. Stabilì che si trattava di strage fascista, il che ha consentito per 31 anni di sfoggiare intorno a quel terribile evento tutto il repertorio ideologico connesso, la strategia della tensione, i servizi segreti deviati, il doppio stato. Quando ogni anno nella manifestazione commemorativa del 2 agosto viene invocata tutta la verità, è di questo che si sta parlando. Si vuole la verità sui mandanti, ossia su coloro che controllavano quell'ipotetico stato eversore che, secondo la teoria del doppio stato, agiva nell'ombra dietro lo stato ufficiale. E se venisse fuori che non era vero niente? Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco sulla scena della strage, dal magazine 7 del 2 settembre. In molti paesi stranieri, le TV cercano di abituare gli spettatori a guardare film e telefilm in lingua originale. Ma il nostro non è un paese per sottotitoli. La prima volta che andai in Norvegia imparai quale straordinario veicolo di colonizzazione culturale anglo-americana fossero i programmi in lingua originale e sottotitolati della televisione, telefilm, fiction, film, ma anche di diffusione della familiarità con la lingua inglese. Quest'anno sono stato qualche giorno in Svezia e ci ho ripensato. Sono popoli per cui la conoscenza della lingua inglese non è estesa solo per il livello di civiltà, cultura, modernità e per la prossimità geografica con la Gran Bretagna, ma anche perché, da che esiste la TV, una grossa quota dei programmi sono trasmessi in inglese e non doppiati. Finisce che ti abitui. Mi sono chiesto cosa avremmo guadagnato noi italiani se una TV pubblica avesse cominciato ad abituarci a vedere i programmi in lingua originale fino dai tempi di Happy Days. E poi via via con il boom dei film americani, con le serie TV e gli show, tutto sottotitolato. Probabilmente sarebbe arrivata Mediaset con le versioni tradotte e avrebbe stravinto con gli ascolti, risponderete voi, dimenticando ancora una volta la logica del servizio pubblico che dovrebbe prescindere dagli ascolti. Ma non voglio dire che andasse fatto. Immaginiamo solo che sia stato fatto da 40 anni. Saremmo un pochino più colti, più cosmopoliti, più preparati a vivere in questo mondo, come la piccola avanguardia che oggi si scarica dalla rete film e serie TV in inglese. Un pochino, per carità. Pazienza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Sofri, Non è un paese per sottotitoli, da Vanity Fair del 7 settembre.